con Maria Virginia Siriu, direttrice del Festival di Teatro e Cultura Non Violenta Love Sharing a Cagliari dal 23 al 27 ottobre, entra nel vivo. Maria Virginia, ben trovata. Ciao, bentrovati a tutti. Mi dicevi che questa è la prima vera e propria edizione dopo alcune sperimentazioni. Sì, diciamo che questo è il primo anno in cui intanto c'è un tema specifico, quello delle migrazioni. Festival è al suo completo, nel senso che tutti gli aspetti, sia quello scientifico che quello dello spettacolo, di workshop, laboratori, delle arti, eccetera, è pienamente sviluppato, nel senso che abbiamo un cartellone ricchissimo di appuntamenti e quindi riusciamo veramente a mettere in atto quello che era l'idea del festival in principio, cioè quella di far comunicare il mondo scientifico con l'arte, con il sociale, col territorio, con le istituzioni. Come si compone l'edizione di quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo diversi appuntamenti. Intanto stasera ci sarà Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, che incontrerà il pubblico dopo la proiezione del film a lui dedicato Foca a mare di Gianfranco Rosi. Poi domani entriamo ancora di più nel vivo del festival con Giove Covatta, che ci presenta la Divina Commediola, dove si parla di diritti umani, dei diritti di bambini, quindi un tema molto serio, ma che si presta ad un'interpretazione come quella di Giobbe, che sicuramente metterà in evidenza tutte le contraddizioni nelle quali siamo impigliati, che poi tra l'altro è tipico del tema del festival delle migrazioni, perché è un tema difficilissimo, molto complesso, e quindi per questo presenta appunto degli aspetti contrastanti. Sì. Poi il 24 ci sarà la prima nazionale della nostra produzione, produzione di teatro non violento, che si chiama La Vedova Scalza, è tratto da uno scrittore sardo, Salvatore Niffoi, presenta la storia di questa donna che migra dalla Sardegna in Argentina, quindi oggi parliamo di migrazioni, di migrati che arrivano da noi, ma anche noi siamo, come italiani, siamo sempre stati in giro per il mondo. E racconta la storia appunto di questa donna che aderisce dapprima al codice della vendetta barbaricina, quindi si parla di un tema molto vicino all'identità sarda, ma poi la rinnega proprio in virtù di questo suo vissuto di donna e di madre. Ancora abbiamo il 25 della Parecidos, che parla sempre della storia appunto di questo immigrato argentino sindacalista, poi il 26 Intime Friend, che è uno spettacolo, una coproduzione, Welcome Project, Teatro del Lenin, quindi un grande nome del teatro contemporaneo italiano, che affronta il tema dell'identità e dei confini, quindi porta lo spettatore a vivere quelli che sono appunto le classificazioni che possono esserti attribuite dall'esterno, con tutto ciò che questo implica per te, per la tua identità di persona. E infine chiudiamo con Emergency Teatro, che porta in scena Viaggio Italiano. È proprio un racconto di quello che la ONG fa in giro per il mondo, di quelle che sono le esperienze dirette sul campo. È un festival diffuso, nel senso ha una sua continuità anche nel resto dell'anno? Il vero e proprio festival è concentrato adesso, infatti negli stessi giorni comunque ci saranno anche gli incontri tematici con l'università, con l'ASCE, con tutte le associazioni impegnate in vario modo nel sociale, ci saranno i laboratori, ci saranno le attività per le scuole. Quest'anno in particolare il festival è stato preceduto da una manifestazione che si chiama Peregrini, che è appunto un programma di camminate meditative in giro per la città di Cagliari, con lo scopo sia di far conoscere la città e quindi il mondo in cui viviamo quotidianamente, che però spesso guardiamo distrattamente, e a quello di far incontrare insieme persone molto diverse in un'esperienza molto forte come quella della meditazione. Peregrini, dal romano peregrinus, cioè non cittadino, straniero, viaggiatore, viaggiatore spirituale, poi, quindi un modo per affrontare questo tema delle migrazioni, partendo dal fatto che siamo tutti peregrini, siamo tutti ospiti su questa terra, quindi tutti stranieri in fondo. Sì. In chiusura ci lasci i riferimenti internet per seguire la programmazione? Sì, potete andare sul sito www.lovesharingfestival.org e lì troverete appunto tutto il cartellone con gli appuntamenti, gli orari e tutto quanto. Allora, ricordiamo il Festival di Teatro e Cultura Non Violenta, la quarta edizione di Love Sharing, entra nel vivo dal 23 al 27 ottobre. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Maria Virginia Siriu. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Lunga vita al lupo, grazie a voi. Ciao. Ciao.